quick tick. See, I need tick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The high heels on for the baby blues. The very first time, man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stopped to own a dime to look. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click, I switch it. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm. She's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I gotta stitch it. See, it's a neat trick. But see what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I stitch it. Yeah, yeah, yeah, don't you know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, mama, mama, yeah, yeah. I stick a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click, click, click, I'll yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I got yeah, a crazy yeah, little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah. Ben ritrovate a Slick Chick, sempre su Radio Wombat, puntata di oddio, che giorno è oggi? 18 ottobre 2017, ovviamente. E ebbene sì, oggi parliamo con questa musichetta zompettante che vi ho messo a introdurre, parliamo di fumetti. Fumetti, comics, graphic novel, strisce, un po' come le volete chiamare, insomma, più o meno va bene, uguale. La musichetta saltellante che sentite di sottofondo è Minnie's Yoo-Hoo. Chissà se, boh, Yoo-Hoo, ma che cazzo, boh, non lo so. Comunque è una di quei di quelle ridenti e meravigliose musichette della Disney, come potete probabilmente facilmente intuire. E quindi questa era un po' l'inno di Minnie, la fidanzata di Mickey Mouse, come tutti sanno. E vabbè, direi di chiudere qui questa tremenda cosa e facciamo finta che non ve l'ho fatta sentire, dimenticatela. I fumetti nel corso della storia sono stati usati in mille modi, direi, boh, sia per divertire che per intrattenere, ma anche per consolidare il potere, per decostruirlo, oppure per sopravvivergli o per fuggirne. L'argomento è immenso, obiettivamente, la musica lo centra, boh, solo in parte, ma proprio così, di sgamo, proprio al limite, perché in effetti è stato anche abbastanza difficile trovare cose, anche perché, se vi ricordate, un po' di mesi fa, quasi all'inizio di questa trasmissione, sì, mi sembra era l'inverno scorso, boh, chissà, non me lo ricordo, i miei biografi sicuramente se lo ricorderanno. In ogni caso, vi avevo fatto ascoltare una fantastica puntata dedicata ai supereroi dei fumetti, quindi ho dovuto togliere assolutamente da tutto ciò, dalla puntata di oggi, tutto ciò che riguarda appunto i supereroi, perché non mi sembrava il caso di essere così ridondanti, anche perché insomma è un argomento che interessa forse solo a me. E quindi parleremo di tutto ciò che è fumetto ma non riguarda i supereroi. Faremo magari altre puntate perché insomma appunto l'argomento è bello tostino. Adesso arriviamo subito al clou della faccenda, andando a indagare un fumetto bello bello vecchiotto. 8, che è Hallie Hoop. Hallie Hoop era un personaggio dei fumetti creato nel lontano 1932 dall'americano William T. Hamlin, e in Italia è noto come il cavernicolo Hoop. E vi assicuro che non è una delle peggiori traduzioni che sentiremo durante questa puntata. Era un uomo preistorico fatto paradossalmente vivere insieme ai dinosauri, d'altra parte non era peraltro l'unico, vi ricordate anche Flintstone, insomma, non è che doveva esserci un rigore storico inappellabile. E vedrà in realtà nel 1939, mentre prima dall'inizio era un po' statica come faccenda, c'era un po' le vicende di questo personaggio, ma insomma un po' noiosetto, dal 1939, boom, grandi eventi, grandi divertimenti, perché viene introdotta la macchina del tempo. E quindi, invece che avere come unico habitat l'età della pietra, il nostro Hallie Hoop si sposterà in vari periodi storici, compresa l'età contemporanea. È ambientato, almeno originariamente, appunto, almeno quando non si sposta, nel regno preistorico di Mu, un luogo in realtà niente affatto tranquillo, in cui il protagonista al protagonista gli tocca affrontare a suon di pugni e schiaffoni avversari prepotenti e vari personaggi cattivi che vogliono sostanzialmente insidiare la sua fidanzata, oppure hanno mire più ambiziose come quelle di conquistare il reame. Mettendo a rischio la pace e la tranquillità di tutti. Però insieme a queste cose più importanti ci sono anche vicende più casalinghe che coinvolgono appunto Halley e i vari comprimari, e di fatto viene quello che viene dipinto è un po' uno specchio della società americana dell'epoca, degli anni che vanno appunto dal 30 in poi. Uno specchio della società americana in realtà abbastanza umoristico, a tinte abbastanza umoristiche. La macchina del tempo appunto viene introdotta da questo buffo professor Won Mug, chissà come lo leggono, e il suo assistente Oscar Boom. E vabbè, niente, da lì il personaggio viene trascinato nel XX secolo, diventa un loro amico appunto di questo professore, del suo assistente, e via via esplorano i vari meandri del tempo e si vivono le varie avventure obiettivamente piuttosto divertenti. Ora arriviamo al pezzo che vi faccio sentire, che appunto si intitola Hallie Hoop ed è degli Hollywood Argyles, probabilmente, sì, Hollywood Argyles. Da qui capirete che non so assolutamente di che gruppo stiamo parlando, non l'avevo mai sentiti, ma il bello di questa trasmissione è che mi fa scoprire musica completamente nuova che assolutamente ignoravo. Insomma, quando gli Hollywood Argyles registrarono questo pezzo, pare che durante la sessione, proprio quindi durante le registrazioni, il produttore Kim Fowley e il batterista Sandy Nelson, sbronzi marci come tacchini, si misero a picchiare bottiglie vuote e cestini della spazzatura. Ci si divertiva così. In effetti si sente, lo noterete, e probabilmente è una di quelle cose che rendono questo pezzo piuttosto divertente. There's a man in the funny papers we all know. He lives way back a long time ago. He don't eat nothing but a bearcat stew. Well, this cat's name is Alley-Oo. He got a chauffeur that's a genuine dinosaur, and he can knuckle your head before you count too far. He got a big ugly club and a head full of howl, like great big lions and grizzly bears. toughest man there is alive. Hallelujah. Wearing clothes from a wildcat's hide. Hallelujah. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. Jungle tearing limbs off of trees, hallelujah. Knocking great big monsters dead on their knees, hallelujah. The cats don't bug him cause they know better, hallelujah. Cause he's a mean motor scooter and a bad go-getter, hallelujah. The toughest man there is alive. Hallelujah. Wears clothes from a wildcat's hide. Hallelujah. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. There he goes. Hallelujah. Look at that caveman go. Hallelujah. He sure is hip, ain't he? Hallelujah. Like what's happening? Hallelujah. He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, dinosaur. Ride, daddy, ride. Get 'em, man. Like Hipsville. Sull'orologio del Wombat sono le 21:12. Se ci state ascoltando in diretta, vuol dire che siete passati probabilmente dal nostro sito wombat.noblogs.org e avete intelligentemente cliccato sul pulsante della diretta. Altrimenti vi ricordo che potete ascoltarci ovviamente in replica negli altri giorni. Controllate sul palinsesto che trovate sempre sul sito del Wombat, perché io adesso non mi ricordo assolutamente più quando va in replica Slitchick, perché abbiamo, vi posso dire questa anteprima, cambiato completamente il palinsesto delle repliche e quindi boh, chissà quando andiamo in replica. Comunque potete ascoltarci in replica in altre fasce orarie e in altri giorni, o altrimenti potete comodamente scaricarvi o ascoltarci in streaming, ascoltare il podcast, quindi la registrazione postuma, e anche questo lo fate sempre dal nostro sito, vi ricordo wombat.noblogs.org, e vi ricordo già che ci sono anche la casella di posta, postawombat@insiberia.net, alla quale potete scrivere e invocare aiuto o mandare idee, consigli, boh, magari vi interessa anche partecipare, chi lo sa. Ma torniamo a noi, torniamo ai nostri meravigliosi fumetti, e in particolare a un fumetto direi veramente importante, che è V per Vendetta o V for Vendetta, boh, come lo volete dire. E allora, ora ovviamente andrò a scandagliare il fumetto nelle sue interiora, ma prima di tutto vi parlo del brano che ci andiamo a ascoltare, che ci dà un po' la scusa per parlare di questo fumetto di Alan Moore. Il brano è This Vicious Cabaret, dall'album V for Vendetta del 1984 di David Jay. Nel 1984, appunto, lo stesso Alan Moore, insieme a David Jay, che è il bassista dei Bauhaus, incide questo disco, questo LP, dal titolo V for Vendetta, in cui vengono interpretate atmosfere e brani del meraviglioso fumetto in questione. In particolare, This Vicious Cabaret riprende il testo del preludio suonato al piano da V, che fa da apertura al libro, e ne fa un bellissimo, cioè il brano che andremo a sentire lo fa diventare un bellissimo pezzo in stile cabarettistico grottesco. Ma tornando al fumetto, V for Vendetta o V per Vendetta, non so, io non essendo milanese, schifando abbastanza quelle terre, mi viene da dire V per Vendetta, ma insomma se voi siete più nordici forse direte V. In ogni caso, V per Vendetta fu originariamente pubblicato in bianco e nero tra il 1982 e l'85 nella rivista inglese Warrior, ma ahimè, nel 1985 Warrior chiuse i battenti, lasciando i lettori orfani della conclusione della storia di V. dramma, perché insomma poi era anche un finale che ovviamente non vi dico, ma insomma era importante, quindi rimasero tutti un po' a bocca asciutta e un po' angosciati. Molte case editrici cercarono di continuare la pubblicazione, ma in realtà si riuscì a concludere la serie soltanto nel 1988, quando la DC Comics decise di ripubblicare tutta l'intera serie in una collana di 10 numeri, per giunta a colori. Distopie, parliamo di distopie, lo vedremo durante il corso di questa puntata, ne parleremo un bel po', e d'altra parte fateci l'abitudine, Slick Chick è così. La storia è ambientata in una Gran Bretagna neanche troppo futuristica, devo dire, in cui un regime dittatoriale chiamato Northfire, o Fuoco Norreno, ha preso il potere durante, cioè dopo una guerra nucleare, classico direi, abbastanza un classico. Le solite cose: mezzi di comunicazione controllati dal governo, corpi di polizia segreta, campi di concentramento per minoranze discriminate sia dal punto di vista razziale che da quello sessuale. In più, una forte componente tecnocratica, con richiami palesi, ma proprio palesi, a 1984 di George Orwell. Telecamere, intercettazioni, controllo costante, insomma niente di particolarmente nuovo, ma descritto con cura e in maniera piuttosto dettagliata. In questo scenario si aggira V, che è un anarchico con la maschera di Guy Fawkes, che inizia una campagna elaborata, violenta e teatrale in qualche modo, per cercare di sovvertire questo ridente regime. Tutto ruota intorno alla lettera V e al numero 5, piuttosto importante, ricorrente, insomma l'amour, poi, insomma, poi è finito a fare i tarocchi, e quindi insomma diciamo che era importante per lui la cabala e i numeri mistici e bla bla bla, tant'è che V è rappresentato, appunto il protagonista è rappresentato in un episodio mentre legge V di Thomas Pynchon, ad esempio, oppure in un altro episodio viene citata la quinta sinfonia di Beethoven. Molte delle azioni si svolgono il 5 novembre, giorno della congiura delle polveri, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata, l'incidente a Lurk Hill, l'attentato all'Old Bailey e quello al Parlamento. Come se non bastasse, V si esprime spesso con frasi dalla struttura metrica del pentametro giambico, quindi insomma un po' maniacale, ma che rende il tutto molto interessante. Il 17 marzo del 2006, e forse ve lo ricorderete, è uscito in contemporanea mondiale V per Vendetta, il film di James McTighe su sceneggiature delle sorelle Wachowski. Alan Moore rimase molto contrariato dal film, che in effetti è piuttosto edulcorato e banalizzato in stile americano, diciamoci, probabilmente altrimenti non sarebbe stato molto capito, purtroppo. In particolare Alan Moore lamenta l'annacquamento di tutti i precisi riferimenti alla società fascista britannica vecchia e nuova, e beh, ne aveva fatti parecchi e effettivamente sarebbe stato bello ritrovarli anche nel film, soprattutto scritto dalle sorelle Wachowski, che secondo me si potevano impegnare un tantino di più. Questo è appunto David Jay con This Vicious Cabaret. They say that there's a broken light for every heart on Broadway. They say that life's a game and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story. Then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties. There are wands, forms and chitties and a jackboot on the stair. Sex and death and human grind in monochrome. For one thing down, at least the trains are run on time. They don't go anywhere. Facing their responsibilities either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and then are turned away. And the widows that refuse to cry be dressed in garter and bow tie, be taught to keep their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride bowl with a feeling of unease. He briskly He hungers in his secret dreams, the heart embrace of cruel machine. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw shelter if the show is through. Sidon looks await the cue, but the fools are mostly smiles. At last, the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the strings. Non so a voi, a me questo pezzo piace veramente un sacco e lo ascolterei di continuo, ma dobbiamo andare avanti perché i tempi stringono e dobbiamo arrivare a un pezzo che in realtà ci fa andare abbastanza indietro nel tempo, perché parliamo di Barney Google. A qualcuno di voi non suonerà nuovo, tipo a milioni di persone, vabbè, e perché andiamo al 1916 in realtà, comunque diciamo anni 10-20, perché Barney Google è il personaggio di Married Life, che è una serie strisce creata da Billy the Beck nel 1916 appunto e pubblicata sul Chicago Herald. Parla dei noiosi dolori della vita familiare, della quotidianità della vita familiare, coniugale soprattutto, ed è il classico stereotipo della moglie strega e il marito fannullone. Settimana enigmistica docet, tanto per capirsi. In Italia compare con il nome di Barnabò Goggoloni, cioè... vabbè. Estendiamo un velo pietoso, ve l'avevo detto che comunque le traduzioni sarebbero migliorate nel corso della trasmissione. No, però non so, aspetta, perché non solo Barnabò Goggoloni, che già sarebbe potuto bastare, anche BB, che vabbè, fin lì, un po' Brigitte Bardot, ma ancora si era all'inizio, non c'era ancora, ma anche Scalzapolli e infine Tabaccone. Boh, non si sa bene, Tabaccone forse perché andava a comprare le sigarette, boh, non si sa. Comunque sul Corriere dei Piccoli tutto ciò, mentre con il nome originale appunto di Married Life fu pubblicato sulle riviste Linux, Eureka e Comic Art. Siamo nel pieno del ventennio fascista, ricordiamocelo, e nonostante si sostenesse a man bassa il contrario, evidentemente Stati Uniti e Italia in quel periodo condividevano ugualmente una gran parte della cultura dominante, tant'è che insomma riuscivano a parlare della famiglia più o meno nella stessa maniera. Il duo vocale di Billy Jones e Ernie Herr aveva questo programma radio molto popolare in cui cantavano nuove canzoni destinate a diventare i successi del momento. Una di queste era proprio Barney Google, il cui testo però è piuttosto divertente, quantomeno, perché dice più o meno: chi è il più importante uomo che questo paese ha mai conosciuto? Sapete a quale politico dovrei affidarmi? Beh, non a Mr. Bryan, non a Mr. Hughes, ma a Barney Googles con i suoi, come dire, googleanti occhi. Old Buckler, and a boy, who's the most important man this country ever knew. I don't know what politician you have reference to. Well, it isn't Mr. Bryan, then it must be Mr. Hugh. I've got a hunch into this bunch I'm going to introduce. Who's that? Barney Google with a googly eye. Barney Google had a wife three times his size. She sued Barney for divorce. Now he's living with his horse. Barney Google with a googly eye. Barney Google with a googly eye. Barney Google said his horse would win the prize. When the horses ran that day, Fox Club ran the other way. Barney Google with a googly eye. Get up, Fox Club. Come on, get up out of there. That's it. Who's the greatest lover that this country ever knew? And who's the man that Valentino takes his hat off to? No, it isn't Douglas Fairbanks that the lady's brave about. When he arrives, who makes the wives chase all their husbands out? Why, it's that Barney Google with a googly eye. Barney Google is a guy who never buys. Women take him out to dine, then he steals the waiter's dime. Barney Google with a googly eye. Take it easy, Doctor. Go to sleep as a boy. Who's the greatest fire chief this country ever saw? And who's the man who loves to hear the blazing buildings roar? Anytime a house is burning and the flames leap all about, they tell me you who goes first and puts the fire out. Why, it's the Barney Google with his googly eye. Barney Google told his horse to win the prize. He got odds of 10 to 8. Fox Club came in 3 days late. Barney Google with a googly eye. E invece questo pezzo è, oltre ad essere registrato, ovviamente, insomma, erano anni un po' così, piuttosto malino, e anche un po' due palle, se permettetemi questa cosa di dirla, di farvi i miei commenti, ma giuro che smetterò di fare tutti i commenti pezzo per pezzo e di dirvi i miei interessi, le mie interessantissime opinioni. Proseguiamo, perché adesso cambiamo completamente, e anche meno male direi, perché arriviamo ai Ramones. Ramones ovviamente perché hanno composto, scritto il pezzo "China is a Punk Rocker". Non tutti sanno che questo pezzo i Ramones l'hanno dedicato appunto a Sheena, che però non è Sheena, alcuni dicevano che era una groupie o comunque una fan dei Ramones. In realtà, e mi sembra molto più probabile, anche perché poi l'ha confermato anche Joey Ramone, ora non che Joey Ramone fosse super affidabile, ma insomma a meno di cosa parlava la canzone che ha scritto lui, forse magari lo sapeva. E effettivamente pare che in realtà fosse questo pezzo dedicato a Sheena, la regina della giungla, che era una sorta di Tarzan al femminile, una serie a fumetti molto famosa negli anni 40 e 50, che poi tra l'altro ha dato vita a anche una serie animata e quant'altro, perché poi a un certo punto da lì si sono dipanate tutta una serie di serie è molto bello il radiofonico, una serie di fumetti ma anche di film, cartoni animati eccetera eccetera, dedicate agli eroi della giungla, molto spesso al femminile. Ecco, Sheena era la prima. Nata nel 1937 in Gran Bretagna, è arrivata l'anno dopo invece negli Stati Uniti, Sheena è stata la prima protagonista femminile di un album a fumetti interamente intitolato a lei, perché certo c'erano dei personaggi molto importanti nelle storie a fumetti, ma questa è stata un po' la prima protagonista vera, oltretutto che già si capiva già dal titolo del fumetto, che era proprio soltanto dedicato a lei, prima ancora di Wonder Woman, tra l'altro, che invece è del 41. Sheena introduceva delle caratteristiche inedite fino a quel momento: la lunga chioma bionda e un fisico da pin-up, e in questa maniera fu la prima ragazza della giungla a indossare un audacissimo per l'epoca bikini di pelle di leopardo, che ben presto sarebbe diventato un cliché di gran moda. Beh, non è che la gente se lo metteva, ma nell'immaginario anche erotico del tempo, evidentemente, ebbe gran fascino. Sheena venne pubblicata ininterrottamente nei fumetti fino al 1953, quando risentì sia di una sorta di crisi del settore, ma anche e soprattutto, direi, dell'inasprimento della censura. Ad esempio, nel 1954 lo psichiatra statunitense Friedrich Wertham pubblicò il libro Seduction of the Innocent, la seduzione dell'innocente, che si scagliava contro i fumetti e in particolare contro le figure femminili poco vestite. Sull'onda di questa crociata della morale nacque nello stesso anno la Comics Code Authority, ovvero l'organo di autoregolamentazione del fumetto statunitense. Questo a tutti gli effetti provocò la sparizione dalle edicole di tutte le Jungle Girls di cui parlavamo prima, inclusa la prima e la più celebre, ovvero Sheena, che comunque rivisse poi l'anno successivo come protagonista di una serie televisiva, perché insomma, sì, ho capito la censura, ma i soldi tirano molto di più. Il brano dei Ramones, di cui andiamo adesso ad ascoltarci la registrazione, è stato oggetto di 1000 cover e in tanti l'hanno anche modificato. Tra l'altro, gli Horrors, per esempio, l'hanno fatto diventare Sheena is a Parasite, oppure i Cramps, Sheena is in the Goth Gang, cioè sta povera Sheena se la sono un po' tirata un po' tutti di qua e di là. Joy Ramone, appunto, che vi citavo prima, disse: per me Sheena fu la prima canzone surf punk rock di ribellione generazionale. Ho unito Sheena, la regina della giungla, con la primordialità del punk rock. E fu buffo perché tutte le ragazze a New York sembravano aver cambiato il proprio nome in Sheena. Tutte erano Sheena. Yeah. Beh, dopo i Ramones direi che possiamo dedicarci a un bellissimissimissimo fumetto che è Akira. In effetti finora eravamo rimasti nell'Occidente, non possiamo, parlando di fumetti, non parlare del Giappone. E appunto lo faccio attraverso Akira e Otomo, visto che insomma se poi dovessimo invece parlare dei manga più moderni, vabbè, ciao, chissà dove si arriva, e fra l'altro non avrei neanche più di tanto da dire. Akira è un manga realizzato da Katsuhiro Otomo nel 1982. Si tratta di un classico del cyberpunk, qualcosa che obiettivamente ne ha influenzato profondamente la poetica e gli sviluppi successivi. Tutti, da Gibson a Cronenberg, ma veramente tutti, sono rimasti impressionati dalla potenza e dalla drammaticità di questo manga e poi anche dal successivo anime. La storia è ambientata nell'anno 2019, cioè quindi praticamente tra due anni, ve lo dico, siamo lì, nella megalopoli di Neo Tokyo. Che è sorta sulle ceneri della città di Tokyo, distrutta 30 anni prima da misteriosa esplosione nucleare, eravate pronti, lo so, che ha scatenato poi di conseguenza la terza guerra mondiale. Anche qui torniamo alla classica distopia autoritaria. Le istituzioni sono totalizzanti, il governo irrompe quotidianamente nella vita intima di ciascuno, a tal punto da compiere esperimenti su alcuni bambini con poteri psichici latenti per potenziarli, sfruttando le loro predizioni per mantenere la cosiddetta pace. E anche qui insomma siamo su un terreno abbastanza già percorso, però il come lo percorre Otomo è un qualcosa di assolutamente nuovo e dirompente. I protagonisti principali della vicenda sono Tetsuo e Kaneda, due giovani bikers, motocicli, come direbbe la nazione, appartenenti a gang di teppisti. Il primo scoprirà di avere enormi poteri psichici e si trasformerà in una sorta di semidio folle, scatenando immani catastrofi per conquistare il potere assoluto. Tetsuo è in perenne lotta con Akira, che è un altro ragazzo che anni prima era stato come lui potenziato dagli esperimenti del governo. Il secondo protagonista, invece, Kaneda, tenterà di opporsi a Tetsuo, più pacifista lui, e di riportare la pace in un mondo dilaniato dall'odio e dalla follia. Soprattutto la follia, direi. Ma non solo. Sei anni dopo, nel 1988, ovvero, lo stesso Otomo dà vita al film d'animazione basato sul fumetto di qui sopra. Lo sviluppo e il finale anche sono un po' diversi in realtà, ma la potenza espressiva del film rimane impressionante. Tant'è che appunto se l'avete visto non potete non ricordarvelo. In Akira ci sono diversi temi, a partire dalla critica all'ipocrita fede di Comodo, di quelli che giunti sull'orlo del baratro si vendono a qualsiasi religione gli prometta salvezza. Poi però c'è il vero e proprio tema cyberpunk, ovvero la tecnica, il meccanico che manipola l'uomo e lo trasforma. Un po' il mito prometeico di Prometeo, l'essere umano che pecca di hubris, punta a eguagliare il divino e si sfascia contro lo scoglio della propria natura. Tanto sempre lì si va a parare, sempre lì ci si va a schiantare, non c'è tecnica e scienza che tenga. Ma c'è anche un Giappone profondamente amaro e traumatizzato, una nazione devastata dal toyotismo, colonia umiliante degli Stati Uniti. È un Giappone che ha perso la guerra, di fatto, e ne ha perse diverse, mi verrebbe da dire, che ha perso il suo impero e ne è uscito completamente a pezzi, dalla cultura sottomessa, e cultura peraltro insomma centenaria, e irreparabilmente distrutta. I protagonisti di questa storia, come da classico cyberpunk, sono dei reietti, dei rabbiosi emarginati. Sono quelli che più soffrono sulla propria pelle, ma che al tempo stesso lottano disperatamente per sopravvivere. Poi lo vedremo, perché questa cosa la ritroveremo poi nel cyberpunk di Gibson, di Sterling e un po' dei maestri di questo genere. Tetsuo, conosciuto anche come in questo caso Tetsuo the Iron Man, è invece il film del 1989 diretto da Shinya Tsukamoto. È un film devastante, come peraltro tutti quelli di Tsukamoto. Io non so se l'avete visti, mi dispiace per voi se l'avete visti. È di un horror violentissimo e profondamente respingente. Una storia di fantasmi, di carne che si fonde con la macchina, dove ogni traccia di umanità viene sbranata, fatta proprio a pezzi e uccisa completamente. Ne sono seguiti altri due film, nel 1992 Tetsuo 2 Body Hammer e nel 2009 Tetsuo The Bullet Man. Sono film pericolosi, veramente pericolosi, guardateli, mi verrebbe da dire anche in compagnia, e comunque soltanto se il vostro umore è alle stelle e sentite che niente può scalfirvi, oppure se siete estremamente masochisti, che comunque i gusti sono gusti e io non sto certo qui a giudicarvi. Il brano che ci andiamo ad ascoltare per celebrare Tetsuo è proprio Tetsuo dei Leroy e l'album è Juice of Bimbo del 2007. Yeah! Questa invece era Deborah Harry, il brano era Comic Books, sì, ok, va bene, parlava anche un po' di supereroi, l'avrete sgamato, sì, però non solo, perché insomma, d'altra parte, dentro i fumetti ci stanno pure supereroi, che si deve fare? L'album era Deaf, Dumb and Blonde del 1989 ed è il terzo album solista di Debbie Harry, ve la ricorderete, la cantante dei Blondie. Uscito nell'ottobre del 1989, prodotto da Mike Chapman, che fra l'altro fu di fatto il produttore di un po' tutti i dischi dei Blondie. Fu anticipato, attenzione, nel singolo I Want That Man, che fu censurato perché mostrava Debbie Harry in versione vampira che succhiava il sangue da un ragazzo lasciandolo dissanguato col collo completamente insanguinato, grande scandalo e gli fu censurato il terribile, terribile singolo. Prima di proseguire, perché abbiamo ora da affrontare un argomento bello grande, prima di proseguire facciamo un attimo una pausa perché vi leggo un po' gli appuntamenti della Wombat Agenda e, che sono abbastanza questa settimana in effetti. Partiamo da venerdì 20 ottobre alla Polveriera, che dalle 21 c'è una Trash Night Benefit per Riam. Vabbè, in realtà non c'è scritto molto di più di questo, ma vi invito a guardare sul sito della Polveriera, appunto, oppure lo spazio Facebook di Riam, che sono giovani e c'hanno solo Facebook, che vi devo dire. Invece, sabato 21 ottobre, sempre alla Polveriera, dalle 17.30 presentazione del libro L'inquieta attitudine Camillo Berneri e la vicenda politica dell'anarchismo in Italia di Claudio Strambi, alle 19.30 invece apericena e dalle 21 Red 3 Groove Live. Sempre sabato 21 ottobre invece al Next Emerson proseguono i festeggiamenti dell'undicesimo compleanno e a questo giro c'è alle 20 una cena e dalle 21.30 lo spettacolo teatrale Somos Filastie. Chissà se si dice così, tanto non lo sapete neanche voi, quindi è inutile, e che di fatto parla della lotta di liberazione del popolo palestinese. Dalle 21.30 appunto questo, lo spettacolo teatrale. Alle 22.30 invece parte la Milonga con Tango Sognato, però se volete partecipare alla Milonga vi dovete iscrivere obbligatoriamente, quindi anche lì vi do come riferimento il sito questa volta del CSA Next Emerson, dove potete capire come iscrivervi. Questo per il fine settimana. Per il fine settimana è basta, c'è solo questo. Vi ricordo assolutamente che se volete che i vostri appuntamenti vengano letti e figurino nella Wombat Agenda e vengano letti in radio, dovete, bontà vostra, scriverceli, perché non è che noi facciamo questo di lavoro, essendo una radio totalmente autogestita, si fa quel che si può, quindi se i vostri appuntamenti non compaiono e volete che compaiano, scriveteceli al nostro indirizzo postawombat@insiberia.net. Vi ricordo anche che tutti i venerdì, compreso questo ovviamente, dalle 17 in Piazza Tasso c'è il mercato di Genuino Clandestino, appuntamento che è iniziato la scorsa settimana e che andrà avanti per sempre, per l'eternità, nei secoli dei secoli, e che vi invito assolutamente a frequentare, a prendere l'abitudine a frequentare. Basta, vi ho detto anche troppo, arriviamo al temone, perché un po' abbiamo parlato di varie cose e adesso ci dobbiamo fermare all'Italia. In realtà su fumettisti e disegnatori italiani ci sarebbe da dire veramente un sacco, ce ne sono tantissimi da citare, Ugo Pratt, Altan, Milo Manara, ma tantissimi, Toppi, guarda, proprio non saprei da dove iniziare. E siccome non so da dove iniziare, inizio da Pazienza, da Andrea Pazienza. In particolare vi faccio ascoltare due brani, ce ne sono molti, devo dire, dedicati a lui, ma ve ne faccio ascoltare due. Il primo è di Claudio Lolli, qualcuno di voi riderà, lo so, perché non pensavate, secondo me, che a Slick Chick vi facesse ascoltare Claudio Lolli. E invece sì, vi faccio ascoltare in particolare L'Uomo a Fumetti. Beh, Claudio Lolli e Andrea Pazienza erano molto amici e l'album Antipatici Antipodi del 1903 sarebbe stato un po' troppo, da cui è tratto appunto questo brano, L'Uomo a Fumetti, ha la copertina disegnata proprio da Andrea Pazienza. Quindi ci ascoltiamo intanto questo pezzo e poi parleremo un po' più approfonditamente di questa cosa. E il pezzo mi sento di dedicarlo a Lorenzo, che so era uno dei suoi, della sua musica preferita, Claudio Lolli, e quindi anche se non è, avrei dovuto dedicargli Anna di Francia, però è andata così e almeno gli dedico L'Uomo a Fumetti. È solo la storia dei colori di una matita che ha viaggiato già tanto per conto suo. Si apre una finestra in un muro e via, è la storia dell'uomo che disegnava fumetti. Lavorava la notte da solo nella sua stanza con la lampadina che scotta a 3000 gradi. Fuori c'è un insegna neon che si accende, che si spegne e si riflette in un occhio dell'uomo che disegnava fumetti. Un resto appoggiato all'aria che respiro, alla mia malattia, alla mia poltrona. Non c'è differenza tra New York e Roma. Per gli eri dell'uomo che disegnava fumetti. Disegnava molto spesso una ragazza con un certo nome, con i blue jeans abituati alla sorpresa. Si scambiavano aria e la luce restava accesa. L'amore con un uomo a fumetti. E una sera fu lei che per scherzo pensò a una storia, una morte a puntate colorata in rosa. Si levò i blue jeans e gli disse: non hai più tempo, vieni, sei tu l'eroe di questa morte a fumetti. Io sono solo appoggiato all'aria che respiro, alla mia malattia, alla mia poltrona. No, non c'è bisogno di New York, di Roma. Si cancella dovunque un uomo a fumetti. Cambiarono i colori dalla prima fino all'ultima puntata. Poi lui si disegnò e scrisse nella nuvoletta: addio dall'uomo che disegnava fumetti. Lei ereditò la sua raccolta, la sua lampadina, una cassa di birra e il neon e le sigarette. Si levò i blue jeans e gli disse: adesso abbiamo tempo, vieni. Quando lo ritrovò in un'altra storia a fumetti. Thank you. Claudio Lolli, l'uomo a fumetti, appunto dall'album Antipatici Antipodi del 1983. Proseguiamo sempre su quest'onda, su Andrea Pazienza, perché dobbiamo un po' parlarne, effettivamente l'abbiamo solo accennato. Andrea Pazienza nasce a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. E nel 1974 però si iscrive al Dams di Bologna, lo vedremo, ha girato un bel po', Pazienza, ma fondamentalmente diciamo che a parte l'infanzia poi dopo si è più o meno barcamenato tra Bologna e Montepulciano. Si iscrive appunto al Dams di Bologna che poi tra l'altro invece lascia due esami dalla laurea, ma vabbè, ce lo dovevamo un po' tutti aspettare. Vive gli anni del movimento bolognese del 77, d'altra parte era proprio quel periodo lì e lui era proprio nel posto giusto al momento giusto. Un movimento bolognese in cui ambienta fra l'altro le straordinarie avventure di Pentotal, il primo lavoro pubblicato in assoluto di Pazienza da Alter Alter nel 1977. Al Dams di Bologna incontra, direi diventa proprio amico di personaggi come Pier Vittorio Tondelli e Freak Anthony, ma insomma ce ne sono molti altri magari anche più importanti, soprattutto di Freak Anthony. Nel 1977 con Filippo Scozzari entra a far parte del gruppo che poi realizzerà la rivista Cannibale, fondata da Stefano Tamburini e Massimo Mattioli, a cui si unirà in seguito Tanino Liberatore. Tutto ciò insomma forma un po' l'humus culturale del periodo e tra l'altro una delle scene fumettistiche e artistiche più interessanti italiane, direi forse di sempre. Dal 1979 all'81 collabora invece col settimanale Il Male, meraviglioso settimanale, e nel 1980 invece, sempre con il gruppo di Cannibale di qui sopra e con in più anche Vincenzo Sparagna, fonda appunto nell'80 il mensile Frigidaire, anch'esso meraviglioso, sulle cui pagine fa la sua comparsa per la prima volta Zanardi, il personaggio che spero che quasi tutti perlomeno ricorderanno. Nel frattempo entra in scena uno dei componenti più totalizzanti nella vita di Pazienza, ovvero l'eroina. Probabilmente la componente che di fatto gli prendeva tutta la vita o gran parte. A questo punto Paz, eravamo appunto negli anni 80, nel 1980 si trasferisce a Montepulciano, apparentemente disintossicato dall'eroina, e nel giugno dell'85 conosce la fumettista Marina Comandini e un anno dopo la sposa. Non è che questo dettaglio biografico sia fondamentale da ricordare in radio, non è che vi faccio il gossip, ma le pagine che Paz dedica a Marina secondo me sono veramente bellissime, quindi in qualche maniera l'incontro con lei è stato fondamentale anche per noi. Nel frattempo continua a collaborare con le più importanti riviste italiane del fumetto, tra cui Linus, e partecipa alla creazione del mensile Freezer che si affianca a Frigidaire. Però nel 16 giugno del 1988 muore improvvisamente a Montepulciano a 32 anni, ovviamente per overdose. Dice Staino, Sergio Staino, che aveva modo di conoscerlo un bel po'. Era stato in Brasile con l'idea di staccarsi dalle maledette storie dei pusher che lo assillavano. Doveva stare via un mese e invece se ne andò via per 3 mesi. Così eravamo in pensiero per lui. Tornò da quel viaggio ed era pulito, sembrava un'altra persona. Un giorno mi venne a trovare a Roma, all'Unità, era disperato perché doveva trovare 4 milioni di lire per pagare le tasse arretrate, come mi raccontò piangendo. Non sapevo come aiutarlo, allora gli proposi un contratto per un libro sulle sue storie pubblicate su Tango. Tango, vi ricordo, era l'inserto dell'Unità. Staino, lo sappiamo, affezionato al partito dal PC in poi nelle sue varie forme, quindi sì, Tango era l'ultima evoluzione del momento. Continua Staino, lo lasciai lì per andare a trattare la cosa con l'amministratore del giornale e lui mi riempì la scrivania di disegni di Occhetto. Tornai con 2 milioni, non avrei mai immaginato che mi stava prendendo per il culo. Il giorno dopo mi chiamano per avvertirmi che era morto. essenzialmente sì, è andata così, almeno stando alle parole di Staino, che però da questo punto di vista mi sembra piuttosto attendibile. L'ultimo scherzo, l'ultima beffa, l'ultima presa per il culo è stata per lui e in qualche modo anche per il partito, e poi quei soldi li ha usati ovviamente per l'ultima dose e ci ha lasciato in questa maniera. Pochi giorni dopo la sua scomparsa si apre a Peschici la prima mostra che avrebbe dovuto tenere insieme al padre Enrico. Andrea Pazienza è sepolto nel cimitero di San Severo. Aveva detto al padre: se mi dovesse succedere qualcosa voglio solo un po' di terra a San Severo e un albero sopra. Ci ascoltiamo adesso per finire di celebrare un po' Andrea Pazienza e la sua arte, Murubuto, che beh, di fatto parla dei suoi anni più bui e di appunto la sua protagonista, la protagonista della sua vita, ovvero l'eroina. L'album è La bellissima Giulietta e il suo povero padre grafomane del 2013 e il pezzo è Quando venne lei. Mauri aveva una mano fatata, votata al disegno da sempre. La sua camera un mare di fogli con scogli di matite e tempere. Nessuno come lui rendeva bene i fiori delle orchidee aperte o le foglie delle ninfee che accolgono il volo delle libellule. Maurizio non aveva una donna e conosceva bene il modo giusto e i percorsi per fuggire da sé. Una matita ed un'onda di forme e contorni che invadevano il foglio e leggendo l'ore. Ma per quanto lui fosse un'anima forte e pura, anche il suo polso cedette quando venne lei. I suoi mondi, i suoi sfondi, i suoi sogni, dei bordi, dei fogli, quando venne lei. Maurizio era viva e profonda, un'orma lasciata dalla prova di fuga, forse verso gli dei. Quest'onda fonda la somma degli anni trascorsi tra i suoi fogli e i colori a sognare tra sé. L'infanzia è passato pieno sui fogli del tavolino e la mano sua da bambino, prodigio, genio creativo, tracciava dentro un profilo di un rigo color turchino ed un mondo si ergeva vivo fra i fogli di un bimbo schivo. Lui che era nato fra le industrie e le sassaie, sognava di scappare fra i suoni di un temporale. Suo padre una testa calda, sua madre una schiena stanca, da grande lei lo sognava elegante in una banca. Quando lui disse a caso io voglio vivere d'arte, se sua madre tacque e pianse, suo padre lo prese da parte. E poi gli disse raccogli i tuoi fogli, ricordi, se parti non torni, se parti ti scordi i tuoi soldi, i tuoi soldi. Quando arrivò a Bologna tutto gli apparve come il cielo in terra, la conobbe che passava sotto i portici dell'accademia. Lei aveva la pelle bianca e gli occhi azzurri e diafani. La prima volta che gli baciò le braccia lui si perse negli attimi. Il mondo era più di una donna, sapeva curarlo per vedere altri mondi e poi scordarsi di sé. Questa tua forza è una bomba, pensava all'artista mentre tutto scorreva e lui viaggiava da re. Ma per quanto lui fosse un'anima forte e chiusa, anche il suo polso cedette quando venne lei. I suoi mondi, i suoi sfondi, i suoi sogni, i miei bordi, dei fogli, quando venne lei. Lei lo cercava come fosse un vero amore fra i mercanti dell'estero, nella Big Bow di Piazza Maggiore. Poi fu lui a cercarla in continuazione fra i mercati all'aperto e bistrò della Rive Gauche. L'odore quando disse i suoi fogli, si era lei la mia parte, le sue vecchie carte bianche, la sua arte messe da parte. Lei era così dolce da non poterne fare senza, lui ne impugnava l'elsa, ne coglieva tutta l'essenza. Poi la vide a girarsi fra le persone della stazione, vide gli amici di poche ore morire per il suo amore, vide gli zombie senza più cuore sputare dentro al flacone con una dose di metadone, fare due dosi di metadone. Ecco, e dopo questo allegrissimo che ci ha rincuorato pezzo di Murubutu, arriviamo ai Tear Jerkers con il loro pezzo Comic Book Heroes. Il mantra di questo pezzo è voglio essere l'eroe di un fumetto. D'altra parte dovete rendervi conto che è stato scritto negli anni 70 in Nord Irlanda, il pezzo del 1979, e Nord Irlanda che era proprio un ridente posticino dove trovarsi e non è che ci si può stupire se uno sognava di evaderne, peraltro non è che anche adesso insomma proprio sia una meraviglia. Non a caso erano gli anni del piano boom della scena punk rock nord irlandese, scena prolifica e con un'evidente urgenza di urlare. I Tear Jerkers però per la loro stessa missione in realtà sono stati influenzati moltissimo anche dalla black music, dalla scena di Detroit, dalla Motown, dal soul, dal funk. e tutta quella scena là. Howard Ingram, tra l'altro, il bassista, è stata una figura molto importante per la scena musicale nordirlandese, fondando etichette e aiutando tantissimi musicisti fino anche ad adesso. Quindi, Comic Book Heroes dei Third Jerkers. Comic Book Heroes. Is it a bird? Is it a plane? No. That's the Tearjerkers, the first from them on tonight's programme. Comic Book Heroes, the name of it. Say hello to Mrs. Foster. Nicholas Joseph Fury, ovvero Nick Fury, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee per i testi e Jack Kirby lato disegni, pubblicato dalla Marvel, e la sua prima apparizione avviene nel 1963. Agente segreto ed eroe dell'esercito statunitense, Fury ha esordito come leader con un sigaro sempre in bocca, di un comando temprato dalla durezza della Seconda Guerra Mondiale, per poi divenire un moderno agente della CIA e infine passare all'agenzia di spionaggio governativa denominata SHIELD, divenendone prima agente di punta e successivamente direttore. Insomma, una bella carriera. Questo è il personaggio Nick Fury, e il pezzo che ci siamo sentiti è tratto dall'album The Impossible Dream del 1974 dei Sensational Alex Harvey Band, e si intitola appunto Sergeant Fury. Il testo è un tantino sarcastico, direi, beh, come anche il resto della musica, perché presso a poco dice: porgete i miei rispetti al Sergeant Fury, che voleva essere giudice e giuria, mi ha insegnato tutto quello che so, voglio diventare ricco e famoso, voglio diventare come le stelle che scintillano sull'albero di Natale, e eccetera eccetera. Proseguendo sempre di fumetti piuttosto famosi, andiamo a parlare e arriviamo ai Dalton. I fratelli Dalton invece sono i cattivi del fumetto Lucky Luke, scritto e sceneggiato dall'autore belga Maurice probabilmente. Sono ispirati alla figura della banda Dalton, che erano dei famosi banditi dell'epoca del Far West, tra più o meno il 1890 e il 1892, perché poi sono stati ammazzati abbastanza brutalmente. Appaiono per la prima volta i fratelli Dalton nel 1954, nel sesto numero di Lucky Luke. I quattro fratelli, ovvero Bob, Gret, Bill ed Emmett, anche se in realtà la banda a cui si faceva riferimento, quella vera, contava anche di altri membri, ma vabbè, questi erano, seminano il terrore per il West, si scontrano più volte con il protagonista Lucky Luke e vengono infine sconfitti e uccisi in una sparatoria a Coffeyville. Visto però che in realtà questi cattivi, i fratelli Dalton, piacevano un sacco, strano perché non succede mai, dovrebbero imparare, ma in effetti poi hanno imparato i produttori di fumetti. L'autore morì, volle farli riapparire nonostante li avesse fatti ammazzare, che dovevano essere un po' una comparsata, invece poi ci si affezionarono un po' tutti. E poi vabbè, da lì iniziarono altre vicende. In seguito morì, iniziò a collaborare con Goscinny, che era anche lui contrario all'eliminazione dei banditi, e creò altri quattro fratelli Dalton di nome Joe, William, Jack ed Everell, del tutto identici ai primi, tra l'altro, e cugini in realtà dei primi, e figurarono anche questi come comparse in Lucky Luke contro Josh Jamon nel 1958, in un'improbabile giuria composta da banditi come Jesse James e allestita dal cattivo di turno per giudicare Lucky Luke. Sempre nello stesso anno, nel 1958, questi ultimi nuovi fratelli Dalton appaiono come antagonisti principali in Les Cousins Dalton, i cugini Dalton, con l'obiettivo di vendicare i loro cugini ed eguagliarne la fama criminale. Da lì in poi appariranno in numerosi altri albi, diventando gli avversari più ricorrenti acerrimi di Lucky Luke, il quale però ovviamente poi li sconfigge sempre. D'altra parte così va la vita nei fumetti. Beh, non solo nei fumetti, ma sicuramente nei fumetti. I quattro fratelli Dalton sono peraltro anche i protagonisti di una serie animata dove passano le loro giornate in una prigione di massima sicurezza da cui cercano continuamente di evadere, come dargli torto peraltro, e quindi lunga vita ai fratelli Dalton. Ci ascoltiamo proprio Les Dalton di Joe Dassin. Écoutez, bonne gens, la cruelle et douloureuse histoire des frères Dalton qui furent l'incarnation du mal, et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin. petits à l'école. À la place de crayons, ils avaient des limes. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime. D'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, il n'y a plus personne. Les années passèrent. Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage et ficeler le docteur qui faisait les vaccins. Et puis contaminèrent les gens du voisinage, s'amusant à les mordre, bien accuser les chiens. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, il n'y a plus personne. Ils devinrent des hommes. Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire assurer. Tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y'a plus personne. Tête augmentait de 20 centimes. Des centimes américains. Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y a plus personne. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Yes. Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, someone to hold, would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. L'omino del sonno. L'omino del sonno è un personaggio mitico del folklore del Nord Europa che porta sogni felici beh sì, questione di opinioni, però sì, in teoria porta sogni felici, cospargendo di sabbia magica gli occhi dei bambini mentre stanno dormendo. Mr. Sandman è una canzone popolare statunitense scritta da Pat Ballard e pubblicata nel 1954 e registrata per la prima volta dal gruppo The Chordettes, ed è poi questa versione originale che ci siamo ascoltati adesso. Il testo della canzone chiede a Mr. Sandman di portargli un sogno, Bring Me a Dream, in associazione appunto con la tradizionale figura di cui parlavo prima del Sandman, che portava appunto la buonanotte, i sogni d'oro e tutte queste belle cose. E ovviamente di Mr. Sandman ci sono miliardi di cover, una particolarmente bella è quella delle Puppini Sisters, ma comunque Slick Chick spesso vi faccio ascoltare le versioni originali, perché insomma soprattutto questa ne valeva la pena. Ma questa era la bieca scusa, perché il testo non fa assolutamente riferimento all'argomento di cui stiamo per parlare, anche perché sarebbe stato un anacronismo assolutamente improbabile, ma è una bieca scusa per me per parlarvi di Sandman, che è una serie a fumetti scritta da Neil Gaiman e pubblicata dalla DC Comics tra il 1989 e il 1996, quasi una decina di anni, incentrata sulla versione moderna di un personaggio che della DC Comics aveva già elaborato, un personaggio di fumetti appunto del periodo, quello che veniva chiamato la Golden Age della DC. In realtà poi Neil Gaiman l'ha completamente rivista, devastata, e l'ha resa qualcosa di estremamente più bello, più interessante e anche parecchio più di successo. La serie fa parte della linea Vertigo, peraltro, che è quella etichetta della DC Comics che pubblica le storie da un taglio un po' più adulto rispetto alle solite storielle di supereroi classici. Venne disegnata da vari autori che si alternarono, ma vi raccomando di fare caso alle copertine, perché il copertinista era Dave McCain, che in realtà usa un sacco di tecniche, assolutamente tutte tranne quelle classiche, perché le sue copertine sono rimaste piuttosto memorabili, perché c'erano collage fotografici, pittura a olio, acquarelli, un po' di tutto. Sono una più bella dell'altra, una più diversa dall'altra. Il protagonista della serie di Sandman è Sogno, Dream, personificazione antropomorfa dei sogni e signore del regno dei sogni. Una misteriosa figura solitaria, sempre vestita di nero, chiamato anche Morfeo o Neiros, il plasmatore, il principe delle storie e altro ancora. Ogni volta riceve qualche nome diverso. È obiettivamente un personaggio piuttosto gotico e dark, appunto sempre vestito di nero, e che richiama anche gran parte della scena dark e goth di quegli anni. Insomma, Neil Gaiman di fatto sapeva di cosa parlava. Sogno è uno dei sette eterni che incarnano e regolano ognuno un particolare aspetto dell'esistenza umana, come la morte o la disperazione. Sandman è colui che regola i sogni, come nella mitologia greca peraltro. Morfeo ha il compito di vegliare sugli addormentati, invece nella mitologia germanica a cui facevamo riferimento all'inizio, l'uomo della sabbia fa sognare cospargendo sugli occhi degli uomini appunto questa sabbia magica. Sandman vive nel suo regno in solitudine, anche se ogni tanto incontra sua sorella Morte, Death, un'altra degli Eterni. Tra l'altro il personaggio di Death è piuttosto interessante, perché è tutt'altro, cioè è molto diversa da quello che uno si potrebbe aspettare, è tutt'altro che cupa e triste, ma anzi è piuttosto vitale e ridente in qualche maniera, proprio perché chi accompagna alla morte deve essere, non deve accompagnare in maniera triste e definitiva, ma anzi, questo almeno secondo la tradizione di alcune culture. Il luogo dove Morfeo regna e dove sono ambientati alcuni degli episodi è il Regno del Sogno. E qui il nostro Sandman o Morfeo, con i mille nomi che ha, può fare un po' tutto, attingendo alle idee e alla forza di tutti i sogni che lui, a cui lui riesce ad arrivare. In questa serie ci sono elementi di filosofia, storia, mitologia ed è un caso raro di fusione di vari generi narrativi. È un fumetto veramente bello, come del resto non poteva essere diversamente se avete mai letto qualcosa dei romanzi di Neil Gaiman, insomma non ci si poteva aspettare niente di meno. Questo era Sandman, questo era Neil Gaiman e adesso, cambiando completamente, ci ascoltiamo Sally Brown dei Bad Manners dall'album Return to Ugly del 1989, e un pezzo in realtà scritto da Lauren Atkin ma rifatto da tantissimissimissimi, tra cui una delle versioni più famose è quella proprio appunto dei Bad Manners che ci andiamo ad ascoltare. Io ho sempre dato per scontato che parlasse della sorella di Charlie Brown, Sally, appunto Sally Brown, che a un certo punto compare nella serie, ma in effetti il testo non dice praticamente niente di niente, cioè veramente è un testo, boh, mi verrebbe da inutile, ma sicuramente ai fini della ricostruzione storica e musicologica proprio boh, chissà di che parla. Ma quindi io voglio pensare che sia dedicato alla sorella di Charlie Brown, d'altra parte voglio vedere chi mi smentisce, non... e quindi boh, che vi devo dire, ascoltiamocelo. Sally Brown dei Bad Manners. Brown dei Bad Manners, e adesso ci manca veramente poco alla conclusione di questa puntata, solo due brani, Due brani un po' in antitesi l'uno con l'altro, si potrebbe dire proprio così, ma sono comunque rappresentativi, anzi, del modo con cui fumetti potevano traghettare certi argomenti, anzi del fatto che un po' tutti li hanno utilizzati per i loro sporchi fini, sporchi o non. E partiamo dai fini quelli sporchi, ovvero, almeno dal mio punto di vista, ovvero partiamo da Little Orphan Annie, che non so, sicuramente non ve la ricordate perché insomma, a parte non c'avete 100 anni, credo, e comunque sia, essendo vissuti in Italia, insomma, è forse un po' difficile che ve la ricordiate, ma è quella striscia a fumetti, quella paurosissima, dove c'è sta orfanella con gli occhi bianchi. Tutti i personaggi sono senza pupille. Questa cosa è veramente raccapricciante. Non so come abbia potuto avere successo, ma forse anche questo un po' la dà da pensare. Little Orphan Annie, quindi l'orfanella Annie, è una serie a strisce giornaliere di fumetti americana creata da Harold Gray. E è iniziata il 5 agosto del 1924. La striscia venne realizzata dal suo autore per oltre 40 anni, per poi essere continuata dal 1968 da altri fino alla conclusione addirittura nel 2010, dopo oltre 80 anni. E vabbè, finché i Peanuts, finché si tratta dei meravigliosi Peanuts, lo posso capire, ma pensare che una serie come questa è andata avanti per oltre 80 anni, beh, dovrebbe dirci un po' di cose. Ne furono tra l'altro tratti un lungo serial radiofonico, una commedia musicale nel 1977 e tre lungometraggi negli anni 30 e poi dopo, molto dopo, nel 1981. Non vorrei dire, sono teorie mie, ma il motivo per cui se la spinsero così tanto probabilmente era perché si trattava di pura e semplice propaganda capitalista e imperialista. Annie è una bambina orfana, l'orfanella proprio stereotipata con i riccioli rossi e appunto questi terrificanti occhi privi di pupille, come peraltro appunto tutti gli altri personaggi, compreso il cane. Il cane che accompagna continuamente Annie, che è il cagnolino Sandy, anche lui senza occhi, e protetta Annie da il ricco magnate Oliver Daddy, chiamato così, Warbucks, un tipico capitalista di ricchezza e influenza praticamente illimitate che insieme al suo braccio destro e servitore Punjab, il cui nome ci dovrebbe già far intuire la provenienza geografica, combatte i frequenti intrighi internazionali e i complotti per rapire o nuocere alla povera orfanella. È un'esaltazione totale e veramente senza nessun pudore del dogma americano, dove i ricchi sono sempre i buoni, con l'eccezione che conferma la regola degli affaristi corrotti, proprio tipicamente americana questa concezione, mentre i cattivi sono sempre di estrazione sociale inferiore e insomma si tratta di una meravigliosa morale paternalista e reazionaria, quasi vittoriana direi. Quindi ci gustiamo questa Little Orphan Annie del 1928 dall'orchestra originale che la eseguì per la prima volta, i Coon Sanders Nightwalk Orchestra. A girl could be. smile, oh, what a smile, that's what appeals to me. And if we meet someday, to her I mean to say, little orphan Annie, you'll go smiling through, telling Mr. Trouble, who's afraid of you. You don't let your worries ever cling to you. Though you have nobody, you can bring them too. Though the skies are cloudy, they're bound to clear up someday. Bluebirds will say howdy, because you cheer up and say, come on, Mr. Trouble, who's afraid of you? Little orphan Annie will go smiling through. Pezzo di una qualità audio veramente raccapricciante, ma d'altra parte il modo giusto per ascoltare questo brano del 1928 è attraverso un grammofono. Se voi non avete un grammofono, che ci posso fare io? D'altra parte la modernità è fatta così. Basta, siamo in chiusura. Prima di lasciarvi, vi faccio ascoltare l'ultimo pezzo e vi racconto anche un po' la storia che l'ha generato. Perché parliamo di Mr. Block, parole di Joe Hill su melodia di una canzone di successo del 1908, It Looks Like a Big Night Tonight, di Egbert Van Helsing e Harry Williams. Mr. Block è il lavoratore comune, quello che diciamo è proprio convinto contro ogni evidenza che le verità ufficiali, i sindacati ufficiali, la propaganda ufficiale, i giornali ufficiali, insomma, c'hanno ragione. E in definitiva, diciamo, è super convinto che l'American Way of Life e il grande sogno americano siano la cosa più bella del mondo. Il suo risveglio è sempre brutto, peraltro, sfruttato dai padroni, dalle banche, dai sindacati, insomma, da tutti quelli di prima, mandato in ultimo a morire per la patria. Mr. Block fu anche il protagonista di una famosa striscia a fumetti dell'IDW, creata dal cartoonist Herbert Ribe, quindi forse in tedesco, perché era un immigrato tedesco, nel 1912, raffigurato come un triste ometto con una testa di legno squadrata. Joe Hill, che è l'autore del pezzo che ci stiamo per ascoltare, nato Joel Emanuel Eglank, chissà come si dice Egland, chiamiamolo Joe Hill, e nato nel 1879, è stato un sindacalista e compositore statunitense di origine svedese. Penso lo conoscerete, l'avrete almeno sentito dire. Joe Hill è stato probabilmente uno dei più grandi cantori, operai e sindacali di sempre, oltre ad essere in realtà uno dei principali organizzatori e agitatori del movimento sindacale di quel periodo, ma in generale del movimento sindacale statunitense. Joe Hill emigrò negli Stati Uniti insieme al fratello Paul nel 1902, dopo la morte di entrambi i genitori. Giunse a New York passando per Ellis Island, un po' come tutti, e trovò da vivere nella Bowery, la parte inferiore dell'East End. Si accorse in realtà ben presto che la vera società statunitense non combaciava affatto con quello che si era aspettato, I migranti erano sfruttati, umiliati, denigrati, sottoposti a durissime condizioni. Beh, mica come adesso, insomma, no? Cioè, che è tutta un'altra storia. Lavorò ovunque facendo qualsiasi mestiere, dal minatore allo spaccalegna, allo scaricatore di porto, eccetera. Si spostava un po' ovunque e divenne quello che veniva definito un hobo, viaggiando sui treni merci e campando in mille modi e in mille posti dove lo portava il lavoro, essenzialmente. Joe Hill si iscrisse ai IWW, ovvero gli Industrial Workers of the World, i Wobblies, nel 1910 circa, e divenne un importante agitatore, come dicevamo, e compose moltissime canzoni sulla vita, cioè che parlavano proprio della vita dei lavoratori del suo tempo, canzoni che poi vennero pubblicate nell'IWW Little Red Songbook e divennero famosissime nel mondo intero. Ad esempio Rebel Girl, The Preacher and the Slave, Casey Jones, usate e cantate durante i grandi raduni sindacali, durante gli scioperi, canzoni che sono arrivate fino ad oggi e sono diventate ormai famosissime. Nei suoi giri, nei suoi mille giri, Joe Hill un bel giorno arrivò nello stato dello Utah nel 1913 e trovò lavoro nelle miniere di Park City a Murray, dove viveva una cospicua, in realtà, una vasta comunità svedese. Un anno dopo, nel 1914, fu accusato dell'omicidio di un negoziante di Salt Lake City, processato ovviamente solo su base indiziaria, strana perché in quel periodo non succedeva mai, e fu condannato a morte per fucilazione. Ne conseguì una battaglia internazionale per impedire questa esecuzione, e tra l'altro in molti sostenevano che la condanna a morte di Hill era in realtà dovuta ai boss del rame dello Utah che l'avevano incastrato per toglierlo di mezzo. A nulla però valsero le lotte contro la sua condanna a morte, e il 19 novembre del 1915 Joe Hill fu ucciso nella prigione di stato dello Utah a Sugar House. Poco prima dell'esecuzione le sue ultime parole sembrano essere state "Don't mourn for me, organize", ovvero "non piangetemi, organizzatevi". E con queste parole vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre con Slick Chick, sempre su Radio Wombat alle 21. Ciao ciao! Please give me your attention. I'll introduce to you a man that is a credit to our red, white and blue. His head is made of lumber and solid as a rock. He's a common worker and his name is Mr. Block. And Block, he thinks he may be president someday. Oh, Mr. Block, you were born by mistake. You take the cake, you make me ache. Tie your rock on your block and then jump in the lake. Kindly do that for liberty's sake. Yes, Mr. Block is lucky, he found a job by G. The shark got $7 for job and fare and fee. They shipped him to a desert and dumped him with his truck. But when he tried to find his job, he sure was out of luck. He shouted, "That's too raw, I'll fix them with the law." Oh, Mr. Block, you were born by mistake. You take the cake, you make me ache. Tie a rock on your block and then jump in the lake. Kindly do that for liberty's sake. The money kings in Cuba blow up the gunboat Maine, but Block got awful angry and blamed it all on Spain. He went right in a battle and there he lost his leg, and now he's peddling shoestrings and he's walking on a peg. He shouts, "Remember Maine, hooray, to hell with Spain." Oh, Mr. Block, you were born by mistake. You take the cake, you make me ache. Tie your rock on your block and then jump in the lake. Kindly do that for liberty's sake. Poor Block, he died one evening, I'm very glad to state. He climbed the garland ladder up to the pearly gate. He said, "Oh, Mr. Peter, one word I'd like to tell. I'd like to meet the Esterbilts and John D. Rockefeller." "Oh, Pete," said, "is that so? You'll meet them down below. Oh, Mr. Block, you were born by mistake. You take the cake, you make me ache. Tie a rock on your block and then jump in the lake. Kindly do that for liberty's sake."